Buonasera e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Città Fugico 103.1. Chi vi parla, come sempre, il venerdì sera, o a volte no, è Claudia Mighty Mau. Dopo una breve assenza siamo andati al Primavera Sound di Porto, sul quale abbiamo fatto 3 puntate, quindi ovviamente alla fine siamo andati anche a vedercelo dal vivo. Siamo tornati qui in diretta per parlare di, ebbene sì, un altro festival, però rimaniamo molto local, rimaniamo proprio nella bassa modenese, ovvero in quel di Soliera, dove dal 2007 esiste una molto bella realtà in una molto bella cornice, appunto quella di Soliera in provincia di Mantova, ovvero l'Arti Vive Festival, e l'ascolteremo ovviamente tutti gli artisti del lato musicale, della programmazione musicale, e narreremo, racconteremo, leggeremo dal programma, dal sito, insomma, alla fine in definitiva, quali sono anche gli altri appuntamenti, specificatamente quelli teatrali. Cominciamo quindi con il programma. Il festival si svolge il 4, 5, 6, 7 luglio. E partiamo con la programmazione musicale. Delle ore 20 del 4 luglio in piazza Fratelli Sassi si esibirà Verano. Stiamo ascoltando Verano, al secolo Anna Viganò, bresciana di stanza a Milano. Sta ascoltando Bomba Fragola, uno dei singoli del suo ultimo album del 2018, Panorama, che era stato preceduto da un album omonimo nel 2016 per un artista che noi personalmente abbiamo potuto scoprire ed apprezzare sul palco del TPO in occasione dell'Indie Pride dello scorso autunno. A differenza delle altre trasmissioni dedicate ai festival, dove facciamo ascoltare più brani degli stessi artisti che si esibiscono, però facendo appunto dei giri, dei turni e ricominciando da capo, invece stasera una botta di originalità, abbiamo pensato di mandare di seguito tre pezzi dello stesso artista, così chi ascolta entra appunto questo suono, questo sound nella testa, senza magari appunto rimuoverlo con grazie all'influenza e all'influsso dei suoni degli artisti successivi e possibilmente diversi. E quindi continuiamo a stare nell'onda di Verano con un altro pezzo sempre tratto da Panorama, e abbiamo fatto anche la scelta dei singoli o video, quindi diciamo insomma il top del top della produzione degli artisti, e questa è Dentro la notte. Ascoltando Dentro la notte di Verano, tratto da Panorama, per un artista che si è fatta le ossa sui palchi suonando in precedenza con gli Intercity e con l'Officina della Camomilla, per poi appunto dare vita a questo progetto solista. E dopo l'album del 2018, all'inizio di aprile di quest'anno, è stato diffuso un nuovo pezzo e un nuovo video dal titolo Specchio. E ricordiamo che Verano suonerà in Piazza Fratelli Sassi alle ore 20 del 4 luglio. Noi siamo andate solo una volta un paio d'anni fa in occasione della serata del concerto di Kevin Morby, Clansiness, poi c'era Giungla anche. E come tutti gli eventi del genere, non possono mancare delle strutture, delle infrastrutture di un festival, ovvero un'area dedicata allo street food che copre Piazza Fratelli Sassi, via 4 Novembre, l'immancabile mercatino con oggetti handmade, insomma poi ipsterini, oggettistica e autoproduzioni. Ma anche l'area bimbi, kindergarten, nel cortile del Castello Campori, però a partire dal 5, da venerdì 5 al 7 luglio. Castello Campori, che appunto insomma la struttura più imponente del paese, e infatti il festival si svolge sotto l'egida della Fondazione Campori, Soliera, fa cultura. Per un evento che nasce nel 2007, appunto dalla volontà congiunta dell'assessorato alla cultura del Comune di Soliera e le varie associazioni culturali giovanili che operano sul territorio, anche di Carpi, di Modena. E per noi quella serata del 4 luglio sarà particolarmente speciale, perché perché quello stesso giorno, giovedì 4 luglio, ingresso libero, ovvero gratuito, ovvero non si paga, alle 21.30, il palco grande, questa piazza enorme a fianco al castello, piazza Lusvardi, ci sarà il concerto di Anna Calvi. Anna Margaret Michelle Calvi, londinese di padre italiano, debutta meravigliosamente con un album omonimo che è proprio uno statement del 2011, al quale dedicammo una delle nostre monografie, perché spesso insomma arriviamo per primi a parlare di artisti che poi insomma vengono conosciute più in modo più vasto. Secondo album nel 2013, One Breath. E poi questo ultimo si è fatto aspettare a distanza di quasi 5 anni. A fine agosto è uscito il bellissimo, potentissimo Hunter, soprattutto appunto una grande dichiarazione di indipendenza, di queerness, di fisicità, di sessualità. E anche in questo caso ascoltiamo tre brani dal disco, non nell'ordine della tracklist, ma nell'ordine in cui sono stati diffusi come singoli o video, partendo appunto da questa Don't Beat the Girl Out of My Boy. E il pezzo successivo è la title track, Hunter, bellissima. Come tutto il resto del disco, questo in modo particolare, anche abbastanza... dolorosa? Chissà. Ma dicevamo di come, non di solo musica, tratti il festival Arti Vive, ma c'è anche molto teatro. E se alle 8 suona Verano e alle 9 e mezza suona Anna Calvi, in un'altra piazza del paese completamente dedicato a questo festival, in piazza City, alle ore 20:30 ci sarà il primo episodio, primo appuntamento dedicato al teatro. E il primo appuntamento di teatro è un monologo in bilico tra satira e poesia di e con Massimiliano Loizzi. E siccome noi di musica ci occupiamo, ma vogliamo dare notizia di tutte le altre attività, poi magari appunto uno si fa un concerto, si fa uno spettacolo teatrale, o chi va ad Arti Vive solo per la parte teatrale, non essendo appunto materia che pratichiamo o che abbiamo approfondito, leggiamo semplicemente dalla scheda dedicata a questo evento, che trovate come tutte le altre informazioni possibili immaginabili sul sito artivivefestival.it/2019 programma, dopo ci sono tutte le varie voci. Quando diventi piccolo è il titolo appunto del monologo di Massimiliano Loizzi, che dice: è la storia di un uomo e di come la sua ragazza e i suoi figli, anzi una bimba e un bimbo, gli abbiano salvato la vita, ma anche la storia di un uomo di sinistra in Italia, quindi è una storia tanto triste, ma che suo malgrado fa molto molto ridere. Nella profonda provincia pugliese degli anni Ottanta c'è un bimbo che vive un'infanzia incantata e avventurosa grazie ai racconti stupefacenti di un padre inventa storie, ha un fratello che assomiglia tanto a Batman e una madre che, con la dolcezza del suo canto, fa rimarginare ogni ferita. Ma cosa succede quando l'idillio dell'infanzia finisce? Quando il padre, una volta eroe, si perde nel bicchiere e smette di sognare? Una storia di generazioni che cambiano in un paese che resta immutato. Molto gattopardesco tutto ciò. E arriviamo al terzo pezzo, terzo singolo, ma invece pezzo di apertura dell'album, Hunter di Anna Calvi, ferale, animale. È stato bellissimo vederla al Teatro di Parma a novembre, in un tour che appunto ha coperto i teatri. C'è chi dice che non si può vedere Anna Calvi sul teatro, ma si rotolava per terra con la chitarra lo stesso, anche se era in un teatro dedicato di solito, insomma, uno dei grandi templi della lirica italiana. E comunque il pezzo è As a Man. Passaggio proprio tipico anche di altri pezzi di Anna Calvi, che oltre a Parma abbiamo visto ogni qualvolta ce n'è stata la possibilità davvero qui in Italia, a Bologna, tra Locomotive e Bolognetti. E sempre sul sito artivivefestival.it, sulla voce festival, c'è questa presentazione abbastanza poetica che dice: le arti vive, mutabili e fuggenti, che continuano, che fuggono dai musei, dai teatri, dai libri, e continuano a correre, a cercare nuove forme. Walking and talking as a man. Se sedimentano, si sdoppiano per ripartire e continuare a cambiare. Le arti vive che non ti aspetti, che contrastano e che fanno male prima di fare bene, che non ti vanno comode, alle quali non si è mai pronti. Sulle ali dell'emozione, a cavallo della quotidianità, nella riscoperta dell'impossibilità dei sogni, infatti anche sulle ali delle bellissime farfalle che compongono appunto il soggetto del layout grafico dell'edizione di quest'anno. E finisce As a Man. E passiamo al giorno dopo, siamo a venerdì 5 luglio. Senza nessuna importanza, è solamente un individuo, la sua vita non è condivisa, è un colpo di nausea, è un colpo di nausea. Allora, quello che amo dei festival è scoprire della musica nuova che mi esalta. Sarò un ignorante, sarò chiusa nella mia torre d'avorio, sarò vecchia, ma non conoscevo, ho fame. Il disagio, la parte interiore, l'agonia nasce dal suo piacere, la condizione segreta dell'uomo è un colpo di nausea, è un colpo di nausea, è un colpo di nausea. Musicalmente freschissimo, mi ricorda anche un po' Britpop, un po' più sofisticato. Poi perché fare sempre riferimenti all'estero? Il rifiuto è un errore. Il pezzo che stiamo ascoltando è Un colpo di nausea, tratto dal disco del 2019 dal titolo Un istante. I say si tratta del terzo album, perché questo progetto nasce nel 2013. Nel 2014 arriva un primo album dal titolo O barche che bramate la tempesta, come questo porto è tranquillo, seguito poi dal album omonimo nel 2017, e poi da questo un istante. Adesso ci ascoltiamo un altro molto bello pezzo, La caduta degli dèi. Un vecchio carrello di servizio, una bottiglia vuota, tu digli come sei con me, cosa fai con me, la coperta che abbiamo usato accanto alla finestra, tu digli come sei con me, cosa fai con me. So, le suggestioni poi sono super personali, per cui se dico che il feeling di questo pezzo mi ricorda qualcosa di Strange Ways Here We Come, sono anche fatti miei, insomma è quello che io ci sento per questo progetto di Cristiano Alberici, che abbiamo detto nasce nel 2013 e comprende musica, video, scrittura, fotografia. Dopo diversi anni trascorsi nella band X-Mary, Cristiano ha sentito l'esigenza di avere un progetto suo e quindi sono venute fuori le pubblicazioni che abbiamo citato poc'anzi. Anche si tratta di un duo, c'è anche una ragazza bionda con i capelli lunghi e gli occhiali, ma non ci è dato per ora di saperne il nome. Tu di cosa fai con me? Come sei con me? Cosa fai con me? Come sei con me? Cosa fai con me? Terzo pezzo di Ho fame sulle onde del mare. Appunto, sto cercando il nome della seconda membra di questo duo, ma ogni volta che apro un articolo c'è sempre la foto con loro due, e poi Ho fame è il progetto di Cristiano Alberici e non si nomina l'altra persona. Adesso mi viene il dubbio che sia un cartonato. Ecco perché poi dopo, quando diciamo che una roba è figa, diciamo non sembra italiana. La voce timbro, intensità e lunghezza, e poi senti la e milanese ed capisci che energia. Una grave alterazione. Un disco che sembra così, cioè così leggero, così semplice, ma appunto è frutto di un processo produttivo certosino, che ha prodotto suoni esili e cristallini basati su chitarre acustiche e ritmiche essenziali. Lo so, è facile, il gioco mi ricorda qualcosa, ma il cervello umano funziona così, mi ricorda qualcosa che non ricordo. E io ci tornerei a Soliera anche il 5 luglio per vederli alle 20 sempre in piazza Fratelli Sassi. Però perché senza nulla togliere a uno dei nomi principali degli artisti stranieri internazionali, in questo caso americani, che connotano primariamente la serata, io di mio non ci andrei a vedere i Cloud Nothings, che peraltro ho visto in festival vari negli anni passati. Che meraviglia. E finisce Sulle onde del mare, tratto da Un istante di Ho fame. E con questo sottofondo di un gruppo giustissimo per aprire appunto al concerto di Cloud Nothings, ovvero i Woos, leggiamo quello che c'è in mezzo seguendo la programmazione. Siamo a venerdì 5 luglio, quindi in piazza City, che abbiamo capito è il luogo della cittadina dedicato al teatro, alle ore 20:45. Ci sarà appunto lo spettacolo al titolo Stanno tutti male, oppure direi La gente stanno male. E la scheda recita: sto male può voler significare sto davvero male, un dolore fisico persistente che non passa, un problema reale o anche un disagio mentale, un attacco di panico altrettanto reale. Può voler significare non mi sento al 100%, ma neanche al 50, ma a volte neanche al 10. Può voler significare ho mangiato troppo, ho bevuto troppo, ho dormito troppo, oppure anche troppo poco. Addirittura può voler significare questa cosa mi fa davvero ridere, pensate voi. È per questo che questa frase la usiamo talmente tanto che non significa più nulla, eppure stanno tutti male. Uno spettacolo di e con Riccardo Goretti, Stefano Cenci, parte integrante fondamentale del Festival Arti Vive, che saluto e ringrazio insieme a Enrico Stradi, e con la Pesce, ovvero Lorenzo Urcillo. E questo spettacolo è disponibile al prezzo, disponibile, accessibile, visibile al prezzo di 10 euro e si ripeterà anche il giorno successivo, sabato 6. Abbiamo detto, stiamo ascoltando i Woos con una tripla O, con un pezzo tratto dal loro album omonimo Woos, in cui tutti i pezzi sono numerati con numero romano puntato e si chiamano Lo-Fi, quindi questa è il 2 secondo Lo-Fi. E questa band appunto local, ci sono altri nomi appunto local, band che nasce a Modena nell'inverno del 2017 dall'incontro tra Riccardo Rossi, Simone Giari, Alessandro Zanotti, Gianni The Death o Vanna Carina. Dico questo perché le altre band non le conosco. E in poco tempo i tre compongono una decina di brani che appunto sono stati pubblicati nel 2019 come come appunto prima opera omonima. Proprio molto local, perché la loro pagina Bandcamp dice che sono di Carpi. E questo è un altro pezzo, è il numero 3, Lo-Fi. Figo, belli questi pezzi. Insieme curano voci, melodie e testi, dando vita a brani energici e intensi, punk nello spirito ma pop nelle stesure, e per questo appunto è, l'accostamento più giusto per i Cloud Nothings. Chitarre fazzose, fuzzose e parti tirate al limite, ispirate dalle sonorità punk, noise e grunge degli anni 90, fuse con le più recenti garage psichedeliche e post hardcore. Manca un sostantivo. Ah, le sonorità, ok. Io ce l'avrei rimesso. La loro musica è come una rete a strascico che pesca emozioni dal fondo, cercando di ridare loro luce sotto forma di canzone. Alle ore 21, Piazza Lusvardi, palco grande, poi alle 22 Cloud Nothings di Dylan Baldi. Yeah. The Cloud Nothings. Stiamo ascoltando primo pezzo, sempre appunto il primo singolo che è stato diffuso dal loro ultimo disco, dal titolo Last Building Burning. Si tratta di The Echo of the World. Come succede magicamente nell'Emilia Romagna, penso soprattutto alle attività dell'Anabi, provincia di Ravenna, che appunto col patrocinio della provincia, della città, della regione riescono a portarci dei grandissimi nomi e a darceli in modo assolutamente gratuito. Anche il concerto di Cloud Nothings aperto dai Woos sarà gratis venerdì 5 luglio alle ore 22. E proseguiamo con l'ascolto di un altro pezzo dall'album Living Now. Dicevamo i Cloud Nothings di Dylan Baldi, che ha dato vita a questo progetto nel 2009 in forma solista, registrando sia appunto la parte vocale e tutti gli strumenti nella scantinato basement, ovvero vabbè, gli spazi delle case americane dedicate insomma all'entertainment, anche appunto alle attività ricreative. È un primo debutto discografico con un album solista nel 2011 e poi altri quattro. Io mi ricordo che appunto ho cominciato a sentirli col disco del 2012, Attack on Memory, infatti li vidi a Pitchfork di Parigi in quell'anno. E poi appunto per finire con Last Building Burning, uscito nel 2018. Per dire, proprio con quel disco Attack on Memory 2012, insomma, hanno subito sfondato, nel senso che hanno ricevuto, è stato il primo album del 2012 a ricevere il bollino di Best Music da Pitchfork, e poi quello stesso anno hanno suonato anche a Coachella. Attualmente la formazione è in quartetto insieme a TJ Duke, Jason Kierix e Chris Brown. Questo è il terzo singolo tratto da questo album, So Right, So Clean. abbiamo detto che viene da un po' degli stati mitologici degli Stati Uniti, l'Ohio, che secondo me è un po' come il Molise. So Clean, tratto da Last Building Burning, The Cloud Nothings. E dopo il concerto, per chi vuole continuare sotto il nome di Dopo Festival, c'è il Dopo Festival, ovvero presso l'Archdude, famoso circolo club di Soliera, ci sarà il Dopo Festival con il Barone Lamberto, che non è solo un libro di Gianni Rodari, ma lo pseudonimo del modenese italo-somalo Keire Yusuf Abukar Isak. In questa città ci siamo solo noi e qualche africano in sella una graziella. Ti offro un po' di birra ma non la vuoi, ti accendi una Marlboro con una stella. Questo è il suo ultimo singolo Barcellona, tratto dal suo ultimo album Prima. Dici questo posto fa schifo e non ci meritiamo niente. Fuori non è Barcellona, ma tu ti senti meno sola. Sei in cellulare, suona, suona, suona. Guardiamoci negli occhi ancora, così ti senti meno sola. Che fuori non è Barcellona. Cantautore molto conosciuto nell'ambito del panorama musicale modenese, conosciuto da molto tempo perché ha iniziato a fare musica molto tempo fa. Andiamo a fare un giro giù in periferia. E la sua biografia dice: vive l'infanzia a San Cesare sul Panaro, un piccolo paese tra Modena e Bologna, nella decade tra l'82 e il 92, quando ancora l'Italia non era multietnica come oggi. Alla ricerca di un'identità incontra la musica intorno agli 11 anni. E dopo l'influenza adolescenziale, insomma, dell'epoca del grunge, del rock, invece si mette a studiare jazz e a fare musica con un altro pseudonimo, ovvero Wallamage. Così mi sento il cuore in gola, che fuori non è Barcellona. E invece, come Barone Lamberto, esordisce con un pezzo I Giostrai del 2016, ispirato un po' allo stile tra Tom Waits e Capossela. Io che cerco di raggiungerti più resto indietro, perché tu vai molto più veloce di me. Hai ragione, sta città è brutta per davvero, ma lo è un po' meno quando ci sei te. Ora fuori è Barcellona. E direi che con questo pezzo si rimette un po' in linea con il nuovo cantautorato italiano, che fa molto successo. E ricordiamo che dopo il Barone Lamberto ci sarà il DJ set di questo collettivo piuttosto strampalato, che si chiama Nazionali Senza Filtro, tre DJ che vengono dalla scuderia del Mattatoio di Carpi. E così finirà la notte del venerdì che è diventato sabato, ovvero tra il 5 e il 6 luglio. E siamo arrivati a sabato 6 luglio. Ricordiamo, ci sarà la replica sempre in Piazza City alle 20:45 di Stanno Tutti Male. La serata inizierà alle 20:30 sempre nel palco grande, nella piazza Lusvardi, con Marinai, sempre un progetto speciale, un laboratorio di espressione artistica e di socializzazione destinato alla promozione dell'interazione tra ragazzi migranti e coetanei italiani. E quindi è il frutto di un lavoro che ha visto appunto la costruzione di strumenti musicali realizzati con materiali di scarto, e questa performance sarà seguita poi da un altro degli eventi speciali, un esperimento unico e irripetibile, una sola volta, per un irripetibile performance di improvvisazione musicale dal titolo Mediterraneo alle 22. E il primo nome di questo lungo elenco di musicisti è quello più, insomma, internazionalmente conosciuto, ovvero quello del producer inglese James Holden, un fan prodigio della musica elettronica che si è sempre più dato, diciamo, alla world music in questi ultimi anni. Ha iniziato ormai a fare musica 20 anni fa, nel 99, a 19 anni. E mano a mano appunto c'è stata una svolta fino al progetto con James Holden and the Animal Spirits, e l'ultimo suo lavoro che ho trovato è la colonna sonora per, non so, un documentario, A Cambodian Spring, da cui ora stiamo ascoltando un pezzo dal titolo Solidarity Theme, tra parentesi, Release. Cambodian Spring, documentario del 2017, documentario inglese, britannico. Sonora di James Holden su questo documentario, che parla di una resistenza sociale resistenza del popolo per impedire i spazi, i progetti di sviluppo su un lago, il Bueung Kak, nella capitale Phnom Penh, quindi la resistenza della gente del posto contro, insomma, i grandi poteri. E questo progetto mediterraneo vede anche, appunto, la presenza di altri artisti. Abbiamo detto sono molti, sono 11, appunto, italiani e stranieri. Un'altra artista anglosassone è Emma Jean Thackeray, che lei è enfant prodigio sempre della scena jazz della Gran Bretagna, che spesso abbiamo nominato ultimamente con i Sons of Kemet, con Nubia Garcia, con tutte le varie contaminazioni, anche parlando dei musicisti che suonano con Iru Ferriagna, queste contaminazioni, appunto, del new soul e del new jazz, cose che possono avvenire solo a Londra. Emma Jean Thackeray è sia producer di musica elettronica che trombettista, che DJ, che cantante, che compositrice, si trova a suo agio a lavorare con la London Symphony Orchestra oppure a fare un show radiofonico su Worldwide FM. E il pezzo che stiamo ascoltando è Make Do, tratto dal Ley Lines EP del 2018, ovviamente di artisti. Non facciamo ascoltare un pezzo ciascuno degli artisti che partecipano a questo progetto mediterraneo per motivo di tempo, ne abbiamo scelti credo 4. Abbiamo sentito James Holden, questa poi è Emma Jean Thackeray. 11 musicisti, dicevamo, su un unico palco per una sola volta, per un irripetibile performance di improvvisazione musicale. Così come il Mar Mediterraneo rappresenta da millenni un luogo di incontro di popoli e di culture, il progetto nasce per mettere in musica con coraggio e orgoglio il valore e l'importanza della coesistenza e della contaminazione. È grande contaminazione, in quanto vedo dei nomi che non avrei mai visto insieme in uno stesso progetto e in uno stesso palco. Che c'è anche il salentino doc Andrea Mangia, ovvero Populus. E ci ascoltiamo un pezzo del suo ultimo disco, ormai del 2017, Azulejos. Il pezzo si chiama Azul Oro. Seven. E quindi James Holden, Imagine Thackeray, Populous. E poi Machueo, anche questo, insomma, prodigio jazz italiano. Poi Laura Agnusdei, Giulio Sternieri, Antonio Rapa e Dario Martorana, Flu, tra parentesi Inude, Any Other, che ascolteremo in abbondanza tra un po', ovvero Adele Nigro. Cambiamo decisamente sonorità e un altro dei nomi degli artisti, l'ultimo che non abbiamo ancora citato perché aspettavamo che iniziasse il suo pezzo, è una vecchia conoscenza, abbiamo conosciuto qualche anno fa le nostre vesti lavorative di driver per robot e poi l'abbiamo incontrato in tante altre situazioni, specificatamente vabbè quelle del club to club, dove un po' lavora, un po' si esibisce, ovvero Alberto Ricca, in arte Biennoise, e adesso l'illuminazione. Non glielo avevo mai chiesto, l'avevo detto in occasione dell'ultima volta in cui avevo passato un suo pezzo, ovvero per Club to Club dell'edizione scorsa, e da dove venisse questo nome e come si doveva pronunciare, perché comunque c'è questo gioco con noise, Biennoise, ovvero essendo piemontese, sempre quest'aura francese, perché è di Bieno, che appunto immagino sia una ridente località del nord del Piemonte, quindi Biennoise o Biennoise, immagino che i vari paesi che lo ospitano, perché comunque suona da tantissimo, al 2009, quasi 10 anni, e va in un sacco di festival di musica sperimentale. Insomma, ognuno lo pronuncerà un po' secondo le sue proprie regole linguistiche. E l'ultima volta, appunto, nello scorso novembre, avevamo suonato un pezzo tratto dal suo ultimo EP, Sharawaji III, e invece per oggi abbiamo trovato l'ultima traccia diffusa nello scorso novembre nella sua pagina SoundCloud dal titolo Utopia Robots. Thank you. pezzo di grande atmosfera, Utopia Robots, Biennoise, uno degli 11 musicisti del progetto unico, irripetibile, sabato 6 luglio ore 22, Soliera, Piazza Rusvardi, per Arti Vive, è un evento ideato dal Circolo Matatoio di Carpi, sempre attivissimo. James Holden e Imagine Thackeray, Populous, Any Other, Macho, Biennoise, Flui Nude, Laura Agnusdei, Giulio Sternieri, Antonio Rapa e Dario Martorana. E scema questo pezzo di Biennoise e arriviamo andando avanti con il programma. Ricordiamo che nel dopo festival, sempre a partire più o meno da mezzanotte, presso l'Arcidude di Soliera ci sarà il Mediterraneo DJ set e poi domenica 7 luglio pezzo e core, difficile per mille ragioni rimanere professionali ascoltando questo pezzo. Pezzo e core, ore 19, sempre in Piazza Fratelli Sassi, inizia la serata, l'ultima serata dell'ultimo giorno del festival Arti Vive, giornata conclusiva di domenica 7 luglio con storicamente una delle mie mogli, vero, Francesca Bono, moglie e madre. Francesca Bono, voce e chitarra degli Ofelia Dorme, che si esibirà appunto in solo, rivisitando pezzi della discografia degli Ofelia Dorme. Avendo la possibilità di poter chiedere alla fonte, le ho detto: faccio una trasmissione su Arti Vive, quali pezzi ti piacerebbe che suonassi? E lei mi ha dato tre titoli, perché poi sono appunto tre dei pezzi che eseguirà. Come passa il tempo, Paranoid Park, brano di apertura di All Harm Ends Here. Dopo qualche pezzo, qualche EP, il primo album sulla lunga distanza, come si dice, degli Ofelia Dorme, ovvero Francesca Bono, Tato Izia, Michele Postpichl e Gianluca Modica al basso. E poi nel 2014 un disco che proprio abbiamo, non lo so, proprio sì, come un figlio, noi nel nostro giro largo di amici, abbiamo seguito nella sua genesi, l'abbiamo aspettato con ansia, l'abbiamo celebrato con amore. Dei pezzi di Bloodroot è questa bellissima Magic Ring, già nella sua genesi e prima natura, un'esibizione da sola di Francesca e della sua chitarra. E Mighty FM dedicò a quest'album una delle sue monografie. Mi ricordo che mi dissero che l'ascoltavano in furgone mentre andavano in giro per concerti, e non so se Michele, batterista, disse: hai detto delle cose di noi che neanche io sapevo. Poi il terzo album che abbiamo aspettato con ansia, a cui uscita, realizzazione per esigenza, insomma, anche di produzione, visto che il produttore non era uno qualsiasi, ma era a WeB, e quindi anche viaggi di lui in Italia, viaggi della band in Inghilterra. Il terzo album, Secret Fires, arriva nel 2017. E il pezzo che stiamo ascoltando è Body Prayer. When hell breaks loose, you will all try to save something. Ain't nobody crawling, ain't nobody coming. When love gets lost, you will all try to find something. Your body's failing you, ain't nobody expecting it to be so wild, to be wild, to be wild, to be wild, to be wild. Secret Fires, non solo prodotto da WeB ma pubblicato dalla sua etichetta, la HB Recordings. E poi un album soprattutto che è stato scelto da Bowers & Wilkins, uno dei più famosi produttori di impianti di alta fedeltà. È stato rieditato, la versione digitale in altissima qualità, anche in collaborazione con la Real World Records di Peter Gabriel, in quanto appunto sono stati chiamati a suonare al WOMAD, al festival di Peter Gabriel. Your body's failing you, and nobody expecting you to be so wild. Quindi sarà bellissimo, è sempre bellissimo vedere Francesca suonare, l'abbiamo vista suonare in tutte le condizioni, anche con una pancia abbondantissima, appunto prima della nascita di Dante, il 5 febbraio, accidenti, del 2019. Anche se appunto non ci saranno i fidati compari, Tato Scienziato e Michele Sound Engineer, per appunto questa band bolognese doc, un bolognese, un agrigentino ai tempi, perché ricordiamo che poi Gianluca Modica esce dalla band, adesso sono appunto un trio, quindi un bolognese, un siciliano e una fiorentina. per una band che comunque nel scorso dicembre ha pubblicato un altro bellissimo pezzo dal titolo Hands, accompagnato da un molto bello video in bianco e nero. Ma la serata del domenica 7 luglio vede anche la presenza sul palco della già citata Any Other, ovvero Adele Nigro, alla quale insieme ad Anna Calvi, insieme a Ophelia Dorme, poco tempo fa Maite FM ha dedicato una delle sue monografie, i suoi pipponi. E quindi dopo l'esibizione di Francesca in Piazza Fratelli Sassi, alle 20 sul main stage Any Other inizierà una serata finale, la serata finale di Arti Vive Festival, e appunto sempre in ordine di diffusione, pubblicazione dei pezzi, ci ascoltiamo tre brani dal suo ultimo secondo album To Geography, e è Walk Through. As you can, I wouldn't feel anything. I asked you crush me as hard as you can. Disco super personale, To Geography, come si può sentire dalla frase appena urlata da Adele Nigro. Disco figlio della sua età, generazione giovane, millennial, classe 94, nata a Verona e adesso di base a Milano, cantautrice e polistrumentista, sassofonista, bravissima, infatti l'abbiamo vista diverse volte a cantare, suonare la chitarra, unica chitarra elettrica, a parte le poche volte in cui la prendeva anche in braccio, Colapesce, e sassofonista appunto nella live band di Colapesce. Un progetto nato insieme a Erika e Marco, Marco tuttora nella band, diciamo molto molto personale, che quindi fa anche conti con la vita dei giovani, ovvero anche la preponderanza dei social, dell'uso dei social per le giovani generazioni, poi non solo però. E quindi dopo Walkthrough siamo passati al secondo pezzo, tratto da To Geography, ovvero Capricorn No. Questo pezzo, sono questa musichetta così allegra, invece poi parla di abusive relationship. Album To Geography appunto mostra appunto delle capacità compositive incredibili, ma anche appunto di una crescita musicale in pochissimo tempo, e una grande coraggio nella sperimentazione, un disco che non ha paura di rischiare per un album, un artista che non ha un stile e un genere anche difficile da classificare. Si sentono appunto gli influssi jazz, come si sentono gli influssi indie, e mi ricordo quando ho fatto la trasmissione diceva che una delle sue più grandi passioni musicali mi sembra fossero o Band of Horses o Built to Spill, uno dei due. E poi delle giovani generazioni sue quasi coetanee, per esempio Snail Mail, che è Lindsay Jordan, che abbiamo appena visto a Porto. Siamo arrivati al terzo pezzo che ascoltiamo, Danny Oder, tratto da To Geography, dal titolo Geography. Per appunto questo secondo album che ha fatto seguito a Silently, Quietly, Going Away. What's the point of even leaving? There's no point of trying it. It'd be no use loving higher, 'cause then your heart would just turn colder. See the dry lips in the summer, just take a leaf out of my personal book. Try to teach you the care, so you can feel less of a loner. You like to blame it on the circumstances, though it's the structure you don't see. my first time of all, dedicating all my eagerness. And even though my body full exploded, I won't regret a single thing. Any Other, ovvero Adele Negro, accompagnata da sempre da Marco Giudici, l'abbiamo vista sul palco del Covo l'8 dicembre scorso, mi sembra, ed è stata appunto in occasione della sua venuta sul palco del Covo che abbiamo fatto la puntata speciale. Sono diversi artisti in questa edizione di Arti Vive, ricordiamo Arti Vive Soliera, provincia di Modena, da giovedì 4 a domenica 7 luglio prossimi venturi. Sono diversi artisti che ci stanno nel cuore, infatti a cui abbiamo dedicato nelle nostre puntate speciali, e la più recente appunto era quella dedicata a Any Other, un artista a tutto tondo che è appunto cresciuta con l'influenza dell'indie rock degli anni 90 e che aveva appunto caratterizzato il suo esordio musicale, si è spostata verso uno stile super personale che appunto vede tanti influssi jazz e avant-garde, soprattutto per una ragazza giovane che scrive, suona, canta, arrangia, produce la sua musica. Però c'è una cosa che c'è da dire che non abbiamo detto, che questa ultima serata, questo ultimo concerto che inizia appunto con l'esibizione alle 20 di Any Other in Piazza Rusvardi è a pagamento, cioè prima o poi un po' di soldi li dovranno chiedere a qualcuno, ovvero al pubblico. Prevendite disponibili ancora per poco secondo me, quindi affrettatevi perché si tratta di una serata molto ricca, molto bella, 3 live al prezzo di 15 euro. Sometimes you gotta let it go, and I'm sorry this is the case. I'm so sorry this is the case. I am honestly sorry this is the case. Ci sta proprio bene questo attacco. Tre concerti, perché il secondo sarà quello dei Malihini, anche questa una scoperta totale, molto molto molto molto piacevole. Suono sofisticato, raffinato, complesso. Draw for you a circle of black. I will call you with a thousand fruits. I will wake you then I could make you disappear once. Un progetto nato dall'incontro nel 2015 tra Giampaolo Speziale e Federica Caiozzo a Roma. E che ha fruttato un primo EP, Waiting, nel 2016, un secondo, Miss, credo, nel 2017, ho scritto così piccolo, poi Lose Everything, sempre nel 2017, e finalmente un album nel 2018, Hopefully, Again, da cui stiamo ascoltando non ho scelto i video singoli in questo caso, ma quelli che mi piacevano di più, come nel caso di Ho Fame. Questo è il primo pezzo che apre l'album, si chiama A House on a Boat. E finisce il primo pezzo dei Malihini che abbiamo scelto, seguito dalla title track Hopefully Again. E in molti casi mi ricordano, e appunto è una cosa che fa la testa, trovare delle similitudini con ciò che è noto. Il cervello ti richiama, insomma, i metronomi e non solo. Anche se la voce di Gabriele è particolarmente soul, un po' The Weeknd. Però per esempio la chitarra e il basso molto metronomi, e questa appunto è la title track, il secondo pezzo del disco. I know what you think, you just been a man, another baby again, but if you come around you won't stand a chance, don't fight me, love is coming back hopefully again. Ma dobbiamo citare l'ultimo evento extra concerti, ovvero gli eventi che si svolgono in Piazza City contemporaneamente al triplo live in Piazza Lusvardi. Alle ore 20:45 ci sarà il duo Baldo e la scheda dedicata a questo appuntamento recita: suonare, giocare, in italiano sono termini distinti, non così in inglese, tedesco e francese, e neanche nel mio cervello, perché io parlando italiano li alterno, dico giocare invece di suonare, perché nella mia testa non lo so perché, però io parlando in italiano a volte li confondo, so che voglio dire quello che voglio dire ma uso l'altro termine. Ok, dopo un bel chi se ne frega, leggiamo. Cosa può accadere se un musicista serio si trova a suonare con un altro musicista per il quale fare musica e anche giocare? Come reagirebbero l'uno a contatto con l'altro? Quindi scherzi, tic, provocazioni musicali diventano il tessuto dello spettacolo nel quale la musica si coniuga con il divertimento. Quindi anche una bella porzione di musica anche in questo appuntamento, quando poco dopo, alle 21, in Piazza Lusvardi saliranno sul palco i Malihini, che stiamo ascoltando e che ci piacciono molto. Questo debutto come album per la londinese Memphis Industries. Dicevamo, Giampaolo Speziale e Federica Cagliozzo, il primo romano con esperienza alle spalle di attore e compositore di colonne sonore, la seconda palermitana di madre polacca e tra le più acclamate attrici della sua generazione. Con l'alias Thony vanta già una nomination al Davide Donatello come miglior attrice protagonista in Tutti i Santi Giorni di Paolo Virzì. Chi lo sapeva? Oltre a due album e a una colonna sonora. E questo è il terzo pezzo che abbiamo scelto, Nefertiti, vero, la regina, la Fafsi, la regina egiziana. bellissima, le tracce che ne rimangono. Go every praise, I'll come meet you right out. Per questo nome Malihini, che significa nuovi arrivati, newcomers in hawaiano. Metronomi. Se appunto loro citano tra le influenze Charlotte Gainsbourg, José González. Arrangiamenti minimali ma riccamente textured, difficile da tradurre, intrecciati, trama di trama consistente. C'è una scheda lunghissimissimissimissimissima che parla di loro, della loro musica, sulla loro pagina Bandcamp. È veramente interessante, non possiamo leggerla per motivi di tempo, ma possiamo dire dell'album Hopefully Again che le 10 tracce che lo compongono rispecchiano l'intimo dialogo emotivo di una coppia espresso in musica con arrangiamenti minimali e irriverenti leitmotiv, perché poi appunto su questa trama molto sofisticata, anche soprattutto nel primo pezzo si può sentire, poi alla fine ci cantano sopra dei cori abbastanza semplici, super melodici, super catchy per l'orecchio, e in questo modo trasformano la loro visione personale in qualcosa di universale. Ci sono veramente piaciuti tanto e li vedremo probabilmente nelle prime file, perché se non bastasse Any Other e poi questa bella scoperta, insomma, noi siamo lì per probabilmente l'artista più suonata a Mighty FM negli ultimi 6 mesi. Perché nella scorsa puntata ultima che abbiamo fatto in diretta, dedicata a Sexton Unplugged e ai suoi appuntamenti del 2 con Billy Corgan, luglio sempre, dell'8 con Sharon Van Etten, del 9 con Michael Kiwanuka e del 22 luglio con Elena Torra alias X-Re, abbiamo ascoltato per l'ennesima volta, e anche nelle puntate precedenti siamo sempre riusciti a mettercela in mezzo, appunto Sharon Van Etten che suona domenica 7 a Soliera, lunedì 8 a Sesto a Reghena, e magari non so, magari le chiedo anche un passaggio. Praticamente tutto il disco, il bellissimo Remind Me Tomorrow, uscito 18 gennaio 2019, e finora insomma tra i più acclamati dell'anno. Abbiamo ascoltato quasi tutto il disco perché sì, e adesso ci sono anche delle ripetizioni di pezzi che abbiamo suonato nelle scorse settimane. Forse c'erano ancora un paio di pezzi del disco come Stay e Malibu che non abbiamo passato, però abbiamo deciso di seguire questa regola, tra virgolette, tanto faccio tutto da sola, me la canto, me la suono, e di mettere 3 pezzi che fossero i singoli estratti o anticipati dell'album nell'ordine in cui sono stati diffusi, e quindi siamo partiti con Comeback Kid. Now that my brother found. poi secondo me che è stato diffuso è questa bellissima Jupiter 4 per un disco appunto che il primo pezzo sembrava tipo John Jett e poi questo pezzo quasi non so, synth pop un po' dark, molto molto molto d'atmosfera. Jupiter 4, che è il nome del sintetizzatore che la fa da padrona, però appunto un suono che non è mai stato presente quasi proprio mai nella precedente produzione di Sharon Van Etten, che appunto ha segnato questa grande differenza sonica. E tra l'altro questo è anche una autocover, nel senso, cioè un pezzo che lei aveva scritto per una cantante pop, adesso non mi ricordo il nome, lei però l'ha voluta appunto incidere col titolo Jupiter 4, mentre l'altra versione si chiama Jupiter. E facendo le mie ricerche ho trovato una bellissima, non intervista, ma il report di un'intervista, insomma un racconto della genesi dell'album Remind Me Tomorrow e di tutta la sua persona e tutte le sue attività, tutte le premesse del disco e insomma un po' i suoi, sua filosofia di vita. Questo bellissimo articolo del The Guardian . Il titolo dell'articolo è Sharon Van Etten, The More I Let Go, The More I Progress as Human Being. E racconta appunto della passione nata per questo sintetizzatore Jupiter 4. Dice: ogni volta che nello studio arrivava un momento di frustrazione, cioè nella scrittura, che mi voleva far venire voglia di sbattere la testa contro il muro, mettevo giù la chitarra e suonavo qualsiasi altro strumento così per schiarirmi la testa, e si è resa conto che le veniva, era attratta da sintetizzatori, dalle tastiere, particolarmente a questo synth di proprietà del suo collega di studio, l'attore Michael Cera. Ed è così che è nato questo pezzo. Love song. è appunto questo inizio, invece, che ci ricorda tanto Non sono una signora, è un volo a planare, ma è l'inizio di Seventeen, che abbiamo messo appunto giusto la scorsa puntata. Uno dei pezzi più forti dal vivo, poi è bellissimo, anche se si spacca la voce per fare l'ultima parte del pezzo. E appunto il titolo di questa intervista dice: più lascio andare le cose e più mi sento di progredire come essere umano. Parole sante, ma è difficilissimo. E c'è stata anche la maternità, appunto questo periodo di inattività, anche perché appunto ho fatto un figlio, che mi ha permesso di accettare l'idea di avere un produttore, cosa che non c'era stata mai prima, invece di controllare ogni elemento della registrazione, e ha scelto, non a caso, Furba, John Congleton, conosciuto appunto per il suo lavoro con Sam Vincent, John Grant, Angel Olsen e da ultimo anche nei Luffer Yagna, l'abbiamo detto molte volte, e che l'ha appunto aperta a nuove influenze. Lei dice: ci sono tante cose, l'innamorarsi, metter su casa, diventare madre, ci sono talmente tante cose che tu non riesci a controllare che le devi lasciare andare. E appunto sento che più lascio andare e più quindi mi fido degli altri, delego gli altri a fare le cose che io ho bisogno di fare, meglio mi sento e più progredisco come essere umano. E che l'ha fatta anche appunto concentrare di più sulla voce, sul ruolo di cantante, anche perché appunto diventare madre ha portato dei problemi, nel senso, ha fatto un parto cesareo, per cui diciamo aveva perso l'elasticità dei muscoli addominali e quindi non riusciva semplicemente a cantare delle note. Appunto, dopo tante canzoni che parlavano delle relazioni, delle abusive relationship, delle brutte storie, delle bad romance, degli amori malati che ha avuto fino a quando era adolescente, 17 anni, ricordiamo Love More, lacrime sono scorse a fiumi quando l'ha fatta a Berlino. Finalmente si è sistemata, un suo amico collaboratore, batterista della sua live band, è diventato suo marito e padre di suo figlio, anche perché lei è una brava ragazza del Jersey, che poi ha vissuto tanto a Nashville, negli stati del sud, anche abbastanza da amarla, diciamo. E ecco lo sfogo di questo pezzo, Seventeen, che abbiamo detto nell'altra trasmissione è una canzone d'amore a New York, che parla appunto di se stessa quando a 17 anni stava a New York, è andata a New York. E ricordiamo, poi l'abbiamo detto, il suo ruolo di attrice in The OA, la presenza nella sua band nel finale di un episodio di Twin Peaks. E sarà un finale glorioso di Arti Vive 2019. Abbiamo cercato di illustrare con tutte le nostre idiosincrasie, eccetera, il programma di quest'anno. Grazie a Stefano, grazie a Enrico. Questo era Maite FM. E ciao da Claudia Maiti Mau.